conta il numero delle foglie che hanno gli alberi nelle foreste. Dimmi quanti pesci ci sono su tutti i fiumi lungo le coste. Conta tutti gli uccelli e le nuvole, quelle che vengono dall'equatore. Poi fai il conto e dimmi quanto vale il tuo amore. Dimmi il numero più grande, quello che supera l'infinito. Dimmi il numero delle stelle, quelle che brillano sul tuo bel viso. Dimmi il numero delle montagne, delle cime più alte del mondo. Dimmi il numero delle galassie, degli universi, e poi faremo il conto. Buongiorno, buongiorno stellina. Buongiorno, stella matutina. La somma delle tue somme sarà sempre una piccola parte dell'amore che porto per te. Buongiorno, buongiorno stellina. Buongiorno, cara mia bambina. Il cielo non può contenere neanche un pizzico di questo sole, di questo amore che brilla per te. Conta tutte le strade del mondo, del cielo immenso e della luna, i rubini, tutto l'oro, l'argento, tutta la luce di una stella alpina. Cammina dritta, non voltarti mai, esplora i mari anche i più profondi, tutte le barche che prendono il largo e tutti i nomi di tutti i venti. Dimmi il numero più grande, quello che supera l'infinito. Dimmi il numero delle stelle, quelle che brillano nel paradiso. Dimmi il numero delle montagne, delle cime più alte del mondo. Dimmi il numero delle galassie, degli universi, e poi faremo il conto. Buongiorno, buongiorno stellina. Buongiorno, stella matutina. La somma delle tue somme sarà sempre una piccola parte dell'amore che porto per te. Buongiorno, buongiorno stellina. Buongiorno, cara mia bambina. Il cielo non può contenere neanche un pizzico di questo sole, di questo amore troppo grande che brilla per te.